Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Thank you. Thank you. l'ultima parte di Eclettica dell'ultimo volume della settimana. Fra l'altro questa è la settimana numero 16 all'interno della stagione numero 14 di presenza sulle frequenze di Rock FM. Eclettica con Giulio Caperdoni tutti i giorni fra le 19 e le 20, altrimenti disponibile in podcasting, di cui trovate i dettagli su myspace.com/eclettica, anche se c'è sempre a disposizione Giulio e radiorockfm.com per le cosiddette lezioni private. E ogni settimana c'è uno o due che fra voi si fa vivo per avere ulteriori dettagli, perché non riesce magari a capire sufficientemente da quello che c'è scritto. E questo è un termometro per me importante per capire quanti nuovi si aggiungano settimana dopo settimana agli ascolti del podcasting, al di là di quello che si potrebbe eventualmente leggere dai log file, ovviamente. Questa ultima parte si è aperta con The Evangelicals, Skeleton Man, e questo è il titolo del pezzo che ci siamo ascoltati, e poi la monumentale Phlox Third da parte dei Collections of Colonies of Bees. E prosegue con Sean Alice Group, una formazione inglese composta da 8 elementi, che esce con il suo album intitolato 59.59 in questo mese di febbraio per The Social Registry. Formazione inglese che noi ci andiamo ad ascoltare con il pezzo Motionless. Thank you. Per rinascere, cantò Gibrael Farishta, precipitando dai cieli, devi prima morire. Oi oi, per scendere sulla terra rotonda bisogna prima volare. Ta ta takatun. Come puoi ancora sorridere se prima non avrai pianto? Baba, se tu vuoi rinascere? Poco prima dell'alba di una mattina d'inverno, il giorno di Capodanno o pressa poco, due uomini, reali, adulti e vivi, cadevano da grande altezza, 6.000 metri, verso la Manica, senza l'ausilio di paracadute o di ali, da un cielo limpido. Questo era l'incipit de I versi satanici di Salman Rushdie. Thank you. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 16, volume numero 5. Indice: The Warlocks, My Robot Friend, The Mei Shai, Say Hi, Cat Power, Port O'Brien, Evangelicals, Collections of Colonies of Bees, Sean Ellis Group, Fuck Buttons. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.